Ingratitudine e ingiustizia degli uomini verso la fortuna. Da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Vincendola sui venti, nei più remoti mari, un certo mercante fece dei buoni affari, né secche mai, né scogli, gli chiesero i pedaggi e i dazi della merce nei suoi lunghi viaggi, finché egli sol tra 100 compagni ebbe il conforto di giunger con la nave felicemente in porto. Del mar anzi di Stige gli altri nell'onda bruna precipitar, lui solo condusse la fortuna a riveder la patria, e qui gli fe trovare soci ed agenti onesti, perle a trovarsi rare. Quindi gli fece vendere, per finir bene i conti, lo zucchero, il tabacco, a lauti prezzi e pronti, le droghe, la cannella e in poche settimane il fondo delle stoffe e delle porcellane. La moda e la pazzia, le mani colme d'oro, a far più grosso vennero il già ricco tesoro, tal che in bottega e in casa non si sapea contare che a 2 scudi per volta. Nulla di singolare se fra cavalli e cani e servi e fra carrozze paresse di quaresima sempre un festin di nozze. Un degli amici un giorno gli chiese la ragione a tavola di tutta questa benedizione. «Donde la traggi? Donde? Dal mio talento, o caro, dall'arte di saper usare il mio denaro, a tempo e luogo giusto. Con vanto lo confesso, la mia fortuna, amico, non devo che a me stesso». Così, tratto dal dolce, fece i suoi conti male. In nuovi giochi e in rischi perdette un capitale. Si aggiunse l'imprudenza che un grosso bastimento mal noleggiato al primo colpo perì del vento e un altro mal provvisto di buone armi e d'armati cadde senza difese in mano dei pirati. E infine che la merce d'un terzo giunto in porto rimase per un pezzo denaro mezzo morto. A questo ancor si aggiunge l'inganno degli agenti, lo sfarzo, le baldorie e l'altre spese ingenti del fabbricar. Capite che messo su una strada che sdrucciola bisogna che chi tentenna cada vedendolo ridotto ad un meschino arnese? E ciò d'onde deriva? L'amico suo gli chiese. D'onde? Rispose. Ahimè, dalla fortuna trista. E l'altro. Miserabile, prego che Dio t'assista e ti conceda il cielo il dono del coraggio, che se non sei più ricco almen ti renda saggio. Fine della favola. Ingratitudine e ingiustizia degli uomini verso la fortuna. Questa registrazione è di dominio pubblico.